Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, torniamo a parlare di un tema che è ormai una tendenza dominante nei consumi e che ci sta molto a cuore. Parliamo di abitudini, iniziative e app antispreco. Il 5 febbraio scorso si è celebrata la terza giornata nazionale contro lo spreco alimentare. La nostra riflessione partirà dai numeri che fanno il punto sul fenomeno per poi raccontare i nuovi strumenti in mano al consumatore e i casi virtuosi legati non solo al cibo, perché la filosofia antispreco ormai contagia tutti i settori. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. L'autentico sviluppo umano possiede un carattere morale e presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione anche al mondo naturale e tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato. Yeah. We got three R's we're gonna talk about today. Parole dalla rivoluzionaria enciclica verde di Papa Francesco e musica di Jack Johnson con la sua canzone sulle tre R: ridurre, riusare e riciclare, per introdurre la nostra riflessione antispreco. In Italia lo spreco di cibo vale 13 miliardi di euro, equivalenti a 30 milioni di tonnellate all'anno, più della metà dal consumo e un'altra buona fetta dalla ristorazione e dalla distribuzione. Anche il nostro paese, sulla scia della Francia, che ha introdotto l'obbligo per i supermercati di donare gli alimenti invenduti, pena multe fino a 75.000 euro, anche il nostro paese, dicevamo, prepara una legge contro lo spreco alimentare. Attualmente è all'esame della Camera. 6 italiani su 10, secondo un'indagine Coldiretti, mettono in atto strategie contro lo spreco, dal riutilizzo degli avanzi in cucina ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, dalla richiesta della doggy bag al ristorante fino alla spesa a chilometro zero. Una battaglia che si combatte anche via app, a partire dalle informazioni sul cibo. Ubo, che sta per una buona occasione, è un'app che ci suggerisce come, dove e per quanto tempo conservare gli alimenti. Quelli catalogati sono più di 500. Disponibile anche in inglese e francese, è stata sviluppata da Regione Piemonte e Regione Val d'Aosta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Roberto Corniati è il project manager di una buona occasione. Consumiamo male e sprechiamo troppo. Nella fase del consumo domestico, nelle società a economia avanzata, c'è una percentuale fra il 45 e il 50% degli sprechi alimentari complessivi. E dunque bisogna intervenire sui consumatori attraverso un'educazione e attraverso un dare loro degli strumenti che servano a ridurre in effetti lo spreco alimentare. Per lo spreco domestico, quanto è importante conoscere le regole della corretta conservazione dei cibi? Beh, è fondamentale. Lei consideri che negli Stati Uniti, da cui abbiamo anche preso l'idea di realizzare un'app di questo genere, ne esistono ben due di app di questo tipo: Still Tasty, che è un'app newyorkese, e Food Keeper, che è un'app del Dipartimento Federale dell'Agricoltura della Cornell University. Entrambe si basano sulla corretta conservazione del cibo, perché è fondamentale la riduzione degli sprechi attraverso un ragionevole utilizzo degli strumenti, il frigorifero, il congelatore, ecco, di cui oggi vediamo tutti. Come funziona? Una volta scaricata l'app, io inserisco, digito il cibo che mi interessa? Sì, il cibo che interessa, e troverà le corrette modalità di conservazione. Consideri che noi abbiamo utilizzato

semplicissima, dove le persone possono mettersi d'accordo sul posto e il luogo dove effettuare, noi lo chiamiamo scambio, in realtà è una cessione volontaria del bene, non c'è nessuna interazione di denaro. Noi lo chiamiamo scambio perché in realtà uno scambio c'è uno scambio di relazioni. Incontrandosi con uno sconosciuto per regalargli il nostro cibo in avanzo, facciamo un'esperienza che è molto importante da due punti di vista. Uno, ci avvicina a uno sconosciuto, abbattendo un po' quel meccanismo di diffidenza che siamo soliti provare nelle nostre città. E l'altro, ci avvicina al contesto urbano, quindi ci fa scoprire nuovi posti e ci rende un po' meno soli all'interno della città. Il cibo viene fotografato, se non sbaglio, poi c'è la possibilità di aggiungere anche alcune informazioni. Certo. Il cibo viene fotografato e caricato, come ti dicevo. Poi l'utente può inserire tutti i dati che vuole o delle tag per facilitare la ricerca del cibo, come vegetariano, frutta, vegano, eccetera. Anche perché insomma diamo la possibilità di scambiare anche cibo cucinato, non solo fresco. Poi si può anche inserire una descrizione testuale, dove possiamo anche suggerire delle ricette o descrivere in maniera più compiuta il prodotto. Rimane anche molto utile per finalizzare lo scambio spiegare all'utente perché abbiamo questa disponibilità di cibo. Per abbattere la diffidenza è utile dire, non so, ho comprato un pacchettino di yogurt, ne ho mangiato uno, non mi piace, l'altro quindi non lo consumerò. Continuiamo a parlare di scambia cibo tra pochissimo e poi dagli ombrelli alle biciclette, passando per il tempo e l'acqua. Vietato sprecare non solo il cibo. Nel focus sui trend nuovi casi virtuosi che applicano la filosofia antispreco al retail, alla mobilità, all'accoglienza. Restate con noi. Breaking news. Le 22, 18 minuti e 30 secondi, interrompiamo le trasmissioni perché è proprio di questi istanti la notizia della vittoria di Giuseppe Sala alle primarie del centro-sinistra di Milano. Ormai siamo intorno al 70% delle schede scrutinate. Poco fa la stessa Francesca Balzani, che sarebbe seconda, ha dato i complimenti a Sala. Faccio i miei complimenti a Beppe Sala che ha fatto certamente un buon risultato, mentre invece dal comitato di Giuseppe Sala per le primarie del centro-sinistra c'è stato un urlo poco fa, sindaco. Dunque la vittoria di Giuseppe Sala sentiremo naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale radio, maggiori particolari, commenti, le voci e le analisi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere stiamo raccontando la battaglia antispreco via app, i nuovi strumenti digitali a disposizione di un consumatore sempre più attento a condividere. Scambia Cibo è una piattaforma di food sharing, una sorta di dispensa collettiva dove tutti, privati, aziende e associazioni, possono prendere o lasciare alimenti. Ce la sta raccontando Stefano Nafissi. Per fare lo scambio bisogna saperlo con un po' di anticipo, perché la piattaforma ha necessità di insomma ospitare il cibo e poi serve un po' di tempo tecnico per far sì che qualcuno si accorga di questa disponibilità e poi si riesca a incontrarsi. Il cibo che si può caricare è tutto. Noi come unico vincolo abbiamo messo quello di non caricare mai sulla piattaforma un alimento che noi per primi non mangeremmo. Quindi regola principe, non dare agli altri quello che non mangeresti tu. A chi è rivolta per voi nella vostra idea iniziale la piattaforma? La piattaforma è rivolta alle persone in senso ampio, senza nessun tipo di distinzione. Noi ci concentriamo sulle persone perché stiamo lavorando per riattivare un meccanismo relazionale, riattivare le relazioni tra singolo e singolo e tra il singolo e lo spazio urbano. Quello che si crea è una sorta di grande dispensa collettiva, un frigorifero collettivo al quale possono accedere non solo i vicini di casa, perché ricordiamocelo, questa è un po' una pratica di buon vicinato, no? Quella di cedere il cibo in eccedenza. Noi partiamo dalla consapevolezza che alcuni meccanismi di buona convivenza sono stati messi in crisi dalla contemporaneità. Cosa succede? Al giorno d'oggi molte persone non hanno la famiglia vicino, si trasferiscono in città più o meno grandi e sono circondati da sconosciuti. In questo modo diamo una possibilità al singolo di conoscere sia il vicino, ma come un'altra persona dall'altra parte della città. In tanti si dicono, beh sì, ma io non farò mai 30 chilometri per scambiare il mio vasetto di yogurt. Certo, nessuno lo farebbe mai. Però tutti noi facciamo una trentina di chilometri per andare al lavoro. Quindi in questo percorso siamo pieni di opportunità che possono essere colte. E quindi possiamo portare con noi lo yogurt e scambiarlo mentre stiamo facendo qualcos'altro. Dallo a me se non ti va, a me se non ti dà, quello che ti dava prima me lo ridarà. Dallo a me che non ti pentirai, non lo richiederai mai. Dallo a me non si sa mai. È sempre vuoto il mio piatto, finisco tutto, sarebbe brutto. Dallo a me di certo non lo butto. Non è avanzato quello che mi hai dato. Non l'ho sprecato, non l'ho sprecato. E se non ti va di lavorare, dillo a me, c'è qualcosa da buttare. Dallo a me. Della musica da esportare. Dallo a me. Una voce per scaldare i cuori. Dallo a me. Focus sui trend. Non solo cibo, la filosofia antispreco contagia altri settori alla scoperta di un nuovo riciclo di materiali, prodotti e risorse. Ne parliamo con Luisa Schiaro di Future Concept Lab. Bentrovata Luisa. Bentrovati anche voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Lo stimolo ad estendere la filosofia e i modelli antispreco dal cibo ad altri settori parte anche in questo caso dal basso, per così dire, dalle persone. Ci sono casi davvero interessanti nel mondo. Dunque, il primo è Umbra City, quindi la città degli ombrelli letteralmente, che è un servizio che si è ispirato ai molti sistemi di car bike o sharing eccetera, per trovare una soluzione rapida a un problema che è tipico di una città molto piovosa come Vancouver, in particolare la condivisione gratuita degli ombrelli. Come è successo? Ci sono stati collocati alcuni chioschi completamente automatici in tutta la città, dove si possono prendere in prestito gli ombrelli dopo naturalmente aver ottenuto una card collegata alla propria carta di credito, e se non si restituisce l'ombrello entro due giorni ovviamente viene addebitato un costo di $20. Per ora è ancora in una fase di sperimentazione rivolto agli studenti della British Columbia University. Da Vancouver ci spostiamo al Texas, dove è un problema decisamente rilevante quello del traffico, e quindi è stata sviluppata un'app che si chiama Metropia per cercare proprio di risolvere questo problema. Come funziona? Si può anticipare di circa 15 minuti oppure posticipare di non oltre mezz'ora il momento della propria partenza, segnalandolo in questa app che si attiverà per proporre il percorso alternativo meno congestionato dal traffico. Ecco che quindi, in modo ulteriormente, come dire, gratificante, si è stimolati a utilizzare questo servizio attraverso il fatto che si possono guadagnare punti ogni volta che si utilizza questo servizio, punti che poi si trasformano effettivamente in voucher da spendere nei negozi come online su Amazon piuttosto che Starbucks o Target. Tendenze, istanze come queste, Luisa, incontrano sempre di più i temi come quelli delle emergenze sociali, l'accoglienza. Il prossimo caso, me lo hai anticipato, arriva da Londra. Sì, è un caso molto interessante che si rivolge nello specifico a tutti coloro che cercano rifugio, quindi rifugiati per motivazioni politiche tendenzialmente nella città di Londra per almeno un anno. Si chiama The Bike Project, quindi un progetto legato alle biciclette. Quindi un'associazione raggruppa volontari, appunto rifugiati e meccanici, e recupera le biciclette usate non in buono stato oppure semplicemente anche anche da aggiustare. Ogni settimana si organizzano degli incontri con i rifugiati che hanno intenzione appunto di restare a Londra per almeno un anno, per insegnare loro a riparare la bicicletta e poi comunque anche a farne la manutenzione successivamente. Ecco che una volta aggiustata la bicicletta diventa di proprietà, viene regalata al rifugiato, e il vantaggio è innegabile per queste persone, è il fatto che muoversi in una città come Londra con mezzi pubblici è piuttosto costoso, e quindi viene dato loro la possibilità di raggiungere, di poter cogliere tutte le opportunità di sostegno e lavoro che la città offre. Anche il retail e la distribuzione sperimentano questi modelli virtuosi. Sì, interessanti due casi. Da un lato la catena svedese H&M, che ha lanciato un progetto che si intitola Close the Loop Zero Waste, cioè chiudi il cerchio con spreco zero. Quindi per circa un anno nei diversi negozi della catena nel mondo sono stati raccolti i capi in denim usati naturalmente, portati dai clienti che non desideravano più indossarli. È stata quindi creata una nuova linea di 16 diversi modelli, appunto in jeans, uomo, donna e bambino, che adesso sono vendute nei negozi H&M. Con questo progetto si è evitato di utilizzare una grande quantità di materiale vergine di origine naturale, come appunto il cotone in questo caso, con un indubbio vantaggio su anche il futuro delle risorse in generale, oltre che naturalmente anche da un punto di vista di cultura manageriale, se vogliamo. Un altro caso è ci sposta sempre in Europa, nella cultura nordica, quindi ad Amsterdam, in Olanda. Questo Patrick Munster ha realizzato un vero e proprio sogno, come afferma nel sito, quindi quello di favorire il consumo consapevole a partire dalla risoluzione ONU 64-292, che garantisce il diritto umano all'acqua. Quindi ha creato un'azienda che si chiama appunto Marista Ella Maris, che produce acqua minerale naturale e prodotti di bellezza, che sovvenziona i progetti della Fondazione Marista Ella Mare, e che è una diretta emanazione proprio della marca, e quindi ricevendo un importo fisso dalla vendita di bottiglie oppure dei prodotti appunto di bellezza. E al momento sono stati addirittura già realizzati 7 progetti in Africa, in Asia, che sono poi raccontati anche nel sito, proprio per favorire questo accesso all'acqua da parte di più persone possibili. Come sempre tutti i link sulla nostra pagina Facebook. Luisa, per concludere, il sogno, che in realtà non è solo un sogno perché è una vera e propria teoria economica, è quello di un'economia circolare che riduce al minimo lo spreco con enormi vantaggi sia in termini sociali che ambientali. Si tratta proprio dello scambio secondo la logica del dono, che è alla base di questa idea di riciclo antispreco, in cui la tradizionale direzione bionivoca dare e ricevere, no? Tipica di uno scambio commerciale, si è trasformata e si avvicina sempre di più a quello che è stato teorizzato in passato da un grande economista come Marcel Mauss, che ha definito la circolarità come dare, ricevere e ricambiare. Quindi ricevere un dono presuppone la libertà per il consumatore di accettarlo, ma anche la possibilità responsabile di ricambiare la fiducia altrettanto liberamente. Inoltre, in tutto questo, in questa gratuità dell'esperienza, c'è cioè direttamente anche importante il riconoscimento dell'altro, e quindi se il punto di partenza per i retailer che si attivano secondo queste logiche di riciclo se si rifà, dicevo, spesso a un progetto esistenziale, no? Del singolo imprenditore o della marca stessa, è però poi fondamentale che i consumatori siano coinvolti, soprattutto sulla base dell'affinità, dei valori e delle scelte, perché in questo modo diventano essi stessi una cassa di risonanza per i prodotti, i servizi, ma soprattutto tutti i progetti. Luisa Schiero, grazie. A voi, arrivederci. Il consumautore. È il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Grazie Maria Luisa, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera me lo hai anticipato, vuoi partire da un film. Sì, voglio partire dal film che sta segnando un po' questo periodo, in attesa della consegna degli Oscar, The Revenant, cioè il re di vivo. E vediamo se DiCaprio riuscirà a vincere il suo primo Oscar, perché pone un grande tema, che è quello del ritorno alla dimensione selvaggia, ma direi quasi primordiale, quindi valori essenziali di sopravvivenza. Quindi secondo te è un film che farà tendenza, per così dire, in termini di immaginario? Sì, sì, la sta già facendo, lo abbiamo visto per esempio al Pitti, c'è tutto un mondo per esempio dell'abbigliamento maschile che fa riferimento al mondo neoselvatico, primitivo, tessuti, ma lo abbiamo visto anche nelle fiere della casa, le prime fiere a Parigi, quindi uno stile che si rifà ad una natura che non è più la natura edulcorata e diciamo anche ecologista, quindi una natura buona, ma è una natura tra il violento e il profondo. Quindi una forte connotazione ecologista, ambientalista, che del resto lo stesso DiCaprio non smette mai di sottolineare nelle interviste. Com'è cambiata appunto la cifra di queste battaglie che sono così vicine al mondo dei consumi, al mondo dei prodotti? Sì, siamo molto lontani dal minimalismo ecologista, dal neopauperismo, dall'estetica del riciclato, ecco, per capirci. Non perché non siano importanti questi processi, ma ormai sono stati assorbiti, quindi non c'è più bisogno di renderli visibili dal punto di vista delle estetiche, mentre riemerge una dimensione fortissima che è quella della vitalità dell'ambiente, no? Di un'anima animale, no? E c'è questa scena, per chi ha visto il film, molto forte, dove DiCaprio entra in pratica nella carcassa del suo cavallo che è morto e diventa la sua seconda pelle, e questo lo salva dalla rigidità dell'inverno. Ecco, credo che quella sia la scena chiave anche dal punto di vista estetico per i prossimi mesi. A domenica prossima, grazie Francesco. Grazie, grazie a voi. E grazie anche in regia Filippo Aureggi. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.